140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24 e abbiamo raccontato in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. La musica nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Centro Professione Musica, Milano. Arrivano dalla Valle d'Aosta con il loro rock. L'età dell'oro è il nuovo album. Alberto Visconti e Matteo Crestani ci presentano L'Orage. L'Orage nasce nel 2006. La formazione comprende, oltre a me, Rémi Boniface, suo fratello Vincent, che da subito si è ritagliato un posto di spicco all'interno della band come vero e proprio direttore musicale, Matteo Crestani alle chitarre, al liuto arabo, al mandolino, quindi insomma le corde, Stefano Trieste al basso, Florian Bu alla batteria e lo scozzese Ricky Murray alle percussioni. Siete sette, però è come se foste tantissimi, perché suonate un sacco di strumenti per una musica che, come definireste? Rock, folk, folk rock, ho letto addirittura rock delle montagne che trovo bellissimo. Ti ringrazio perché rock delle montagne è una mia invenzione, proprio per rispondere a questa domanda che spesso ti fanno. La realtà è che quello che facciamo è poi il folk rock, una declinazione, ci piace pensare, un po' nuova di una cosa in realtà antica come il folk rock, no? Si parla di folk rock dai tempi dei primi dischi di Bob Dylan. Forse in Italia una declinazione come la nostra non c'era ancora stata. Comunque sì, rock delle montagne, perché poi è anche parossistico questa ripetizione, no? Perché già rock vuol dire montagna, quindi come dicevi tu, sul palco ci sono tanti strumenti, molti dei nostri sono polistrumentisti, in primis i fratelli Boniface, che in due suonano tipo 8 strumenti, anche Matteo Crestani ne suona parecchi, quindi mi pare che siamo 7 musicisti sul palco e 18 strumenti. L'Orage, il temporale, forse si riferisce anche al temporale di suoni che con cui cerchiamo di investire gli ascoltatori. Lorelai era bella e viveva al villaggio, viveva da sola, con orgoglio e coraggio, del re nei suoi occhi, erano limpidi specchi e spezzavano il cuore a giovani e vecchi. Ma un giorno il più puro, per disperazione, saltò la sponda del ponte mormorando il tuo nome. Lorelai, quei tuoi occhi sono valsi una vita. Ti credesti colpevole, fosti pentita. Vorrei farvi parlare un po' dei vostri riferimenti, perché abbiamo da Rimbaud, col vostro primo album che era proprio dedicato a lui, a Baudelaire, citato ad esempio in La Bella Estate, Gainsbourg, quindi molto della cultura francese. È un caso o guardate un po' anche oltre confine? Ma appunto due com'è la storia, due casualità fanno una prova, no? Insomma, noi guardiamo oltre confine sia per quello che riguarda il panorama diciamo dei testi, quindi il panorama culturale, letterario, sia per quello che riguarda la scena musicale, che si tratti di quella pop mainstream oppure forse ancora di più per quanto riguarda tutto il repertorio di musiche tradizionali. Noi, venendo dalla Valle d'Aosta, veniamo da una regione di tradizione francofona, quindi molto del repertorio tradizionale francese è filtrato, fa in qualche modo parte delle nostre stesse radici. Poi appunto scriviamo testi orgogliosamente in italiano e siamo appunto orgogliosi e contenti di lavorare con questa lingua meravigliosa che è l'italiano. Dopo quella volta che sei stata in Spagna insieme a Joe, sei ritornata che ci stavi avanti di un palmo, con l'orecchino sul sopracciglio ed il tatuaggio sul collo. Venivo a prenderti, mandavo a rotoli il resto. Dopo quella volta siamo stati in Francia al tempo della vendemmia, piccola sola al mattino ma dopo alla sera nella mia tenda. Val d'Aosta ultimamente feconda, generosa, molto musicale. La Valle d'Aosta è un territorio pazzesco in questi ultimi anni dal punto di vista musicale, perché con la popolazione di un quartiere, di una grande città, l'intera regione fa tipo 130.000 abitanti, stiamo proponendo parecchie band, parecchi progetti musicali che di respiro nazionale. Oltre a noi, che insomma ce la stiamo lottando, ti cito per esempio Naif, che ha lavorato molto bene, ha collaborato con Paola Turci, con Arisa. Ti cito Francesco C, ti cito i Kina, che sono stati delle bombe nel panorama punk, adesso non esistono più, ma i Dari, che hanno sbancato tra le adolescenti di tutto il paese. C'è della musica tradizionale, è vivacissimo anche il metal, il rock, il blues, è un piccolo crogiolo di musici. Evidentemente, avendo meno cinema, meno divertimenti, piuttosto che in una grande città, la gente si concentra di più nell'imparare uno strumento, nel farsela la musica, e appunto capitano anche delle jam session interessanti. Io vi invito a sperimentare proprio una vacanza magari all'insegna della musica in Valle d'Aosta. Per esempio, a fine agosto c'è il festival di Etetrad, curato dai nostri co-membri della band, i Fratelli Boniface, che è un festival di musiche del mondo parecchio interessante. Ci vediamo ancora a maggio. Mi avevi regalato un vecchio libro di racconti, l'ho letto per i campi, per la strada e sotto i ponti. Ho parlato con il santo che organizza pioggia e sole, l'ho pregato di prestarmi ancora un giorno le parole. Hai detto cinema, però voi qualche contatto con il cinema l'avete avuto? Un po' Marco Ponti, con cui avete lavorato per un video, avete addirittura fatto cantare Jasmine Trinca. Qualche momento di attrazione nei confronti del cinema ce l'avete avuto? Sicuramente sì, io peraltro ho fatto per 4 anni il proiezionista in un cinema, mettevo le pellicole ai tempi della pellicola, e quindi i primi provini dell'orage li mettevo sull'impianto del cinema, che lì si sentiva veramente bene. E sì, con Jasmine abbiamo lavorato, perché con Marco Ponti lui ha sì diretto il nostro videoclip, ma in realtà noi abbiamo partecipato proprio fisicamente, compariamo in un suo film che ahimè non è ancora uscito, si chiama Ti amo troppo per dirtelo, prima o poi vedrà la luce. La protagonista era Jasmine, e con cui abbiamo girato questa splendida scena, che era la sua prima la prima volta che lei cantava in vita sua in scena, poi credo che sotto la doccia cantasse già. E poverina era anche senza voce. Poverina era anche senza voce, ma noi abbiamo sfoderato una bottiglia di ottimo whisky torbato scozzese, che ha incontrato il suo gusto e le ha fatto tornare la voce. Le ha cantato con noi Bang Bang, che poi è uscita sul nostro secondo disco, che si chiamava La Bella Estate. Sì, perché il primo era un concept album molto legato a Rambo, poi c'è stata La Bella Estate, adesso che cosa bolle in pentola, che come sarà quest'estate, questa Bella Estate che è poi quella del 2013? Quest'estate sarà la nostra, speriamo, incrociamo le dita, tocchiamo ferro, ma sarà la nostra Età dell'Oro. Perché? Perché l'Età dell'Oro è il titolo del nostro nuovo album, che è un po'... in realtà, per voi che mi ascoltate in questo momento, il nostro primo album, perché è la prima volta che i due dischi precedenti di cui abbiamo parlato erano stati autoprodotti, quindi hanno avuto una circolazione in realtà massiccia, però legata al live, ai nostri concerti. Invece finalmente, grazie alla collaborazione con Sony Music, siamo in tutti i negozi, in quelli digitali, in quelli fisici, nelle feltrinelle e quant'altro, quindi la musica dell'Orage è fruibile. Quindi se soltanto durante questa chiacchierata vi siete interessati un po' a noi, è facile che procurarvi la nostra musica. Che si rivela efficace nella produzione dell'arte, come una legge dinamica più sicura di altre. Con precisione di formula alchemica, con l'evidenza di un pugno e la grana del sogno, io conosco una condizione dell'anima che mi fa essere un altro. Poi anche un'estate in giro, un bel po' di concerti, l'anno scorso vi aveva addirittura preso sotto la sua ala protettrice Francesco De Gregori, insomma vi ha dato un bel marchio di qualità in questo senso. Francesco De Gregori è una persona che ci ha fatto un regalo enorme e ho l'impressione, divertendosi anche lui, in realtà ci ha aperto moltissime porte, perché sicuramente l'interesse della Sony e insomma mediatico che ci ha un po' circondato negli ultimi mesi nasce nel momento in cui abbiamo cominciato questa collaborazione con Francesco, che è sfociata il 2 di febbraio in questo concertone L'Orage, Francesco De Gregori insieme dal vivo. Abbiamo riarrangiato una dozzina di suoi pezzi, lui ha accettato di venire a cantare con noi, quindi senza la sua band, è venuto solo con la chitarra, che poi non ha neanche voluto suonare la chitarra già che c'eravamo già in due, e appunto si è messo veramente in gioco. Abbiamo stravolto una dozzina di suoi pezzi, dai più vecchi ai più nuovi, divertendoci tutti parecchio, e l'ultimo regalo enorme che ci ha fatto è stato quello di voler cantare una nostra canzone, che voglio dire, De Gregori non sempre canta le canzoni degli altri, ha cantato magari Bob Dylan, invece ha accettato di cantare La teoria del veggente e ha accettato di lasciarcela pubblicare, quindi trovate nel CD La teoria del veggente dell'Orage cantata da Francesco De Gregori. 140 caratteri, una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter giorno per giorno tra conferenze e presentazioni stampa. Ancora musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Parole e dintorni, ufficio stampa, Milano. A 24 anni è pianista e compositrice al debutto discografico, giocando con i bottoni, l'esordio di Giulia Mazzoni. È stato un percorso lungo, faticoso, un percorso fatto di studio, di lavoro, un percorso nato dall'amore per il pianoforte e per la musica, un amore profondo. Sono arrivata un po' per caso a pubblicare questo album, nel senso che l'ho voluto con tutto il cuore, quindi quando ho composto e ho preparato questo progetto io volevo assolutamente condividerlo con gli altri. In un periodo di crisi della musica, crisi generale, non solo della musica, riuscire a pubblicare un album è molto difficile. Io non ho scelto la via dei talent, anche perché non esistevano per il mio genere, però non ho scelto la via dei talent, non ho scelto quella strada, ho scelto una strada diversa, alla vecchia maniera, si potrebbe dire, alla vecchia maniera. Un giorno ho lasciato il demo dei miei pezzi alla persona giusta, che è cioè il mio produttore. Genere, raccontiamo un po' come tu ritieni, a che genere tu ritieni appartenga la tua musica. Io non la definisco la mia musica, la definisco contemporanea, perché nel senso che è dei giorni nostri. È una musica che ha al proprio interno, questo sicuramente, ha delle influenze ovviamente classiche, in particolare il romanticismo, impressionismo, che fanno parte del mio bagaglio culturale, musicale, mio percorso accademico. Al suo interno possiamo trovare la musica da film, anche amo tanto il cinema, il minimalismo, quindi Philip Glass, Michael Nyman, i capiscuola di questo, ma possiamo trovare anche il pop e il rock, che sono due generi, quindi anche la musica leggera c'è nella mia musica, perché ascolto anche quella, ho 24 anni. Togliamoci subito il pensiero della domanda più insidiosa. In tanti, guardando il tuo CD, ascoltandolo, leggendo le note che ti accompagnano, hanno pensato a Giovanni Allevi, hanno pensato ad alcune similitudini. Quali sono secondo te le similitudini e quali invece le differenze? Le similitudini possono essere il pianoforte, vabbè, una similitudine. Possono essere il fatto che lui si ponga comunque, si sia posto un passato con un anche con un look, con un atteggiamento giovane, no? Altre similitudini con lui, musicali, io non le trovo. Sicuramente lo appartiene a una tradizione pianistica come me, che parte dal minimalismo, Philip Glass e Michael Nyman. Da Philip Glass e Michael Nyman poi dopo sono nati anche in Italia Ludovico Einaudi, Giovanni Allevi. Il minimalismo è la base. Un'altra similitudine è il maestro Mario Garuti. Punti discordanti tra me e lui è che appunto siamo due persone diverse, quindi il fatto che ci associno sempre, lui è Giovanni, io sono Giulia, quindi non facciamo, siamo proprio due persone, età diverse, regioni diverse, lui è un uomo, io sono una donna. CD, anche nell'immagine, nella scelta dei colori, delle foto, c'è qualcosa di molto femminile. Sì, appunto, c'è qualcosa di molto femminile. È una sensibilità diversa da quella maschile, non che sia più bella o più brutta. Due, la sensibilità femminile è diversa da, è un dato di fatto, da quella maschile. E secondo me, cioè, è bello, no? Comunque avere un piccolo spazio in un mondo di maschi, in un certo senso, perché questo il mondo della musica comunque è ancora dominato molto da uomini. Quindi è bello, sono onorata di poter timidamente e molto umilmente poter portare la mia sensibilità all'interno di questo mondo. L'impronta che volevo dare anche a questo disco, di un mondo... un mondo sognante, un mondo antico della memoria che potesse in un certo senso riscoprire le piccole cose che poi da adulti un po' le piccole cose che da adulti perdiamo o comunque dimentichiamo. Giocando con i bottoni? Sì, Giocando con i bottoni è un titolo che racconta un episodio della mia infanzia. All'età di 2 anni mi sedevo all'interno di una cesta di vimini e giocavo per ore con dei bottoni colorati. Erano, no, degli oggetti semplici, erano anche banali, molto rudimentali come oggetti, però per un bambino non so come mai, ma erano magici per me, cioè costruivo delle storie, mi inventavo mondi, usavo molto la fantasia e provavo uno stupore, una meraviglia quando giocavo, e questa sensazione l'ho riprovata poi anni dopo quando ho messo le mani su un pianoforte. Per me poi i bottoni erano i tasti, ho ritrovato bottoni nei tasti del pianoforte. Adesso dal vivo però. Sì, adesso dal vivo il 27 luglio per Effetto Venezia a Livorno e il 28 luglio a San Galgano nell'Abbazia, un posto veramente magico, suggestivo, un luogo suggestivo, immerso in queste colline che sembrano dei dipinti, sono perfette. E questa abbazia che non ha il tetto, questa antica abbazia. E quindi sarà molto, molto bello e molto emozionante suonare con, come diciamo, come scenografia le stelle, il cielo stellato. C'è anche un brano dedicato alla notte di San Lorenzo nella rete della luna che ho composto all'Isola d'Elba, mi trovavo. C'è anche il mare presente nei miei brani, mi piace moltissimo il mare. E mi trovavo sulla spiaggia e ho dedicato un brano a questa notte magica, no? Di stelle cadenti, di sogni espressi. Sono una sognatrice, come posso non essere, no? Come non sarebbe stato coerente non dedicare un pezzo alle stelle, forse l'elemento che più mi rappresenta. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. 140 caratteri torna ogni domenica alle 8:30 e 19:30.